Italia in controluce. Non mi sono sentito mai un valente facendo sequestro. Purtroppo mi sono venuto a trovare in certe circostanze, in alcune circostanze, che si è costretti anche a ricorrere a cose che uno non vorrebbe mai ricorrere. Ce ne eravamo quasi dimenticati di lui, di Graziano Mesina, Grazianeddu, il bandito sardo più famoso che abbiamo appena sentito in un'intervista di qualche anno fa sulla Rai. Ce ne eravamo dimenticati fino a questa mattina, quando è stato arrestato nuovamente, questa volta per traffico di sostanze stupefacenti. Pensate che dei suoi 71 anni ne aveva già passati 40 in carcere prima di ottenere la grazia firmata dal presidente Ciampi. Evidentemente però non abbastanza per tenersi alla larga dai guai. Le vostre opinioni al 349-238-6666 e noi salutiamo il nostro ospite, l'ex cronista della Nuova Sardegna, Pietro Manironi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che per anni ha seguito, come potremmo dire, le gesta di Graziano Mesina, lo ha conosciuto anche personalmente. Manironi, c'era da aspettarsi una, come la possiamo chiamare, una ricaduta, una sorta di, insomma, non era fuori? Lei se l'aspettava? Ma sinceramente pensavo di no, ma evidentemente è un destino quello di Mesina dal quale lui non riesce a liberarsi, poi chiaramente bisogna attendere e vedere cosa c'è contro di lui, però pare ci siano degli elementi abbastanza robusti. Assolutamente concreti. Allora Manironi, resti con noi perché prima sentiamola questa storia davvero rocambolesca, molto più simile a un romanzo che a una storia di vita vera, questa la storia di Graziano Mesina nella scheda di Mariana Ballocco. La lunga storia dei conti di Graziano Mesina con la giustizia si era chiusa nel 2004 con il perdono giudiziale concesso dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Il conflitto con la legge ha scandito tutte le tappe della sua vita e oggi si è riaperto con l'arresto per droga. Ma chi è Graziano Mesina? Definito a lungo l'ultimo valente, dei suoi 71 anni, 40 li ha passati in carcere, altri 5 trascorsi da latitante e 11 agli arresti domiciliari. La sua prima impresa è del 56, aveva infatti 14 anni quando fu arrestato per porto abusivo di pistola. Nella sua vita è stato condannato per omicidio, per sequestro di persona, è finito all'ergastolo ed è stato graziato dopo oltre 40 anni di carcere. Conosciuto per le sue numerose evasioni, 22 di cui 10 riuscite, e per il suo ruolo da mediatore nel sequestro del piccolo Farouk Kassam, da alcuni anni era tornato nella sua Orgosolo e si vendeva come guida turistica, accompagnando le persone nella Barbagia e sulla Spromonte, luogo dei suoi nascondigli inespugnabili durante la latitanza. Ma la storia di Mesina è diventata il mito di Grazianeddu, pagine di racconti sui rotocalchi delle sue avventure, visite camuffate da travestimenti allo stadio di Cagliari per seguire il grande Gigi Riva e tanti personaggi pubblici che in qualche modo si sono occupati di lui, da Indro Montanelli, che si è sempre battuto perché gli fosse concessa la grazia, al giudice Giovanni Falcone, che invece si oppose sempre a tale provvedimento, già nel 91 ai tempi del presidente Francesco Cossiga. Uscito nel 2004 dal carcere di Voghera, ora per lui le porte si riaprono con una nuova accusa che si aggiunge al suo lungo curriculum da criminale del banditismo sardo. Mariana Ballocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'avete sentito, Giovanni Falcone si era opposto alla grazia a Graziano Mesina, evidentemente anche in questo caso ci aveva visto giusto, perché Graziano Mesina a questo punto, ovviamente se le accuse verranno confermate, non meritava davvero quella grazia. Pietro Manironi, allora, lei ha seguito la storia di Graziano Mesina, l'ho anche incontrato, insomma che tipo di personaggio è per avere una vita di questo genere, tutte queste fughe, molte peraltro riuscite, la passione per il calcio, l'ammirazione anche di grandi personaggi come quella di Indro Montanelli, anche lei ne ha subito il fascino? Ma io devo dire la verità, assolutamente no, forse perché conosco abbastanza bene Mesina, ma soprattutto perché il suo mito, la sua leggenda poi l'abbiamo costruita noi, o meglio, il mondo dell'informazione. Cioè, Mesina nasce come leggenda negli anni 60, frutto di una pubblicistica che ha bisogno di miti, di personaggi, sono anni confusi, e quindi si cerca il bandito romantico, il bandito da raccontare, il bandito non violento, gentiluomo, ma questa è tutta un'immagine assolutamente falsa. Il guaio è che Mesina poi alla fine è stato lui stesso e ci ha creduto, e praticamente recita nella vita quello che è un copione che è stato scritto da altri, è quasi un caso di di bandito mediatico, passatemi questo termine, questa espressione magari un po' brutta, però la grossa responsabilità di questo personaggio in gran parte ce l'ha l'informazione. Lui ne abbiamo costruito un mito, per certi versi anche positivo, no? Il mito romantico appunto del bandito, come diceva lei. In realtà si tratta di un criminale che peraltro è evidentemente rimasto tale anche dopo la grazia. Sì, non era un assassino, lui ha ucciso solo una volta, ha ucciso per vendicare un fratello che era stato solo una volta. Esatto. Quindi sono state attribuite una serie di omicidi, uno addirittura è veramente qualcosa di grottesco, che è frutto di quegli anni in cui anche pezzi dello Stato hanno avuto delle grosse responsabilità, dell'omicidio Picciau. Era il concessionario della Mercedes di Cagliari, venne assassinato, si disse che era un tentativo di sequestro finito nel sangue, che l'autore era Mesina, e si dimenticò un piccolo particolare, che proprio il giorno e l'ora in cui avveniva il delitto, Mesina a Cagliari, Mesina invece era orgoglioso, circondato da 200 baschi blu che cercavano di catturarlo, e lui fuggiva lanciando bombe a mano e sparando raffiche di mitra. Miglior alibi non poteva averlo, insomma. Ecco, ma ebbe un ruolo anche nel rapimento del piccolo Farouk, perché questa questione è controversa. Ma questa è in Sardegna, ma non solo in Sardegna, anche in Calabria, la storia dei sequestri di persona, soprattutto quelli dagli anni 80 in poi, è sicuramente la storia di sequestri che vengono conosciuti solo in parte. Cioè, esistono due storie, una quella ufficiale, giudiziaria, e poi una invece più oscura, più sotterranea, che probabilmente anche per alcune ammissioni improvvide di anche qualche ministro, come il ministro Scotti, i nostri servizi di informazione hanno avuto un ruolo, hanno avuto una parte. Chiaramente l'obiettivo era nobile, nel senso che si cercava di far finire il sequestro, di risolverlo senza che ci fosse un cadavere magari ingombrante anche politicamente. E purtroppo queste due storie a volte si toccano, si incrociano, e quella di Farouk può darsi sia una di quelle. Ci scrivono i nostri ascoltatori: Massimo, alla fine tutti uguali questi delinquentelli, anche se insomma Mesina delinquentello mi sembra un po' riduttivo, e sempre lungimiranti quelli che graziano i criminali. Ma scusatemi, invece scrive Maurizio da Milano, come fa una persona a riuscire ad evadere 10 volte? Vergogna e grazie a Ciampi per la grazia. Ecco, anche il percorso che lo portò alla grazia, secondo lei, Manironi, fu un percorso limpido? Perché insomma Falcone disse che non si doveva darla. No, è vero, però qui c'è un problema che tutti un po' dimenticano, cioè è un uomo che ha fatto 40 anni di galera, voglio dire, a volte la grazia viene data non in virtù di un merito, ma viene data anche perché la cosiddetta espiazione supera quelli che sono dei limiti, come dire, di tollerabilità umana e civile. 40 anni di galera sono tanti, effettivamente, cioè non c'è nessuna dietrologia in questo, ecco. Però che vita conduceva adesso? Perché insomma abbiamo appreso, veramente abbastanza così paradossale, che faceva la guida turistica in quei luoghi che probabilmente lui conosceva per motivi non puliti, insomma, no? Faceva la guida turistica, sì. Ma insomma fa un po' ridere questa cosa, ma le forze dell'ordine non gli tenevano gli occhi addosso comunque? Ma diciamo, questa è la naturale conseguenza di quello che dicevo prima, cioè lui era un pochino rimasto schiavo del suo mito. Ci fu un poliziotto, un super poliziotto, un vero implacabile cacciatore di banditi, si chiamava Antonio Serra, lo chiamavano Penna Bianca, un uomo che era capace di conoscere veramente il ventre profondo della barbagia, anche quella criminale ovviamente. E lui diceva che Mesina era dietro le sbarre da sempre, che erano le sbarre che erano state costruite dalla pubblicistica, e infatti aveva ragione, da quelle sbarre non sarebbe mai liberato, non sarebbe mai riuscito a fuggire, ad evadere. E allora lui ora era ridotto a fare questo, perché? Perché si sentiva in qualche modo un personaggio, quindi metteva a frutto, così capitalizzava questa sua fama, e facendo una cosa che effettivamente ha qualcosa di ridicolo, se vogliamo, insomma, che va contro quello che è il mito, però lui sfruttava sempre la sua immagine. È stato molto bravo in questo. In media, come ci accusano anche i nostri ascoltatori, i media hanno fatto i soldi con Mesina, adesso li rifanno. Insomma, è vero che abbiamo avuto un ruolo, come dicevamo, anche con Pietro Manironi, che ringraziamo moltissimo per averci dipinto e tratteggiato il ritratto di Graziano Mesina. Ci scrivono ancora i nostri ascoltatori. Emma, almeno lui Mesina ha sbagliato del suo, ha pagato del suo. In piccolo lo ammiro. Se si uccide una volta sola non si è assassini? Beh, la risposta ovviamente è sì, se si uccide anche solo una volta si è assassini e bisogna pagare tutto. Grazie in redazione a Marianna Ballocco, in regia Filippo Aureggi, un saluto da Maria Piera Ceci.